24 Mattino. I già svegli. Sono sveglia perché mi devo preparare per andare al lavoro e nel frattempo ascolto la radio per aggiornarmi, per sentire un po' di musica e per svegliarmi soprattutto. Io la mattina mi sveglio presto perché prima metto in uso il mio Terminator e poi ascolto la radio di Confindustria. Sono già sveglio perché la mattina mi piace fare un po' di jogging prima di andare all'università. Sono Franco da Napoli e a quest'ora sono già sveglio perché ho i pensieri, tanti pensieri. Allora, questo spazio è dedicato a voi, a noi. Io sono già sveglio per fare questo lavoro, ma voi perché? Allora, ogni giorno potete mandarci messaggi, anche dei WhatsApp, a questo numero 349-238-6666, e potete raccontarci il motivo per cui in queste mattine vi state alzando e partecipare a questa sorta di diario in pubblico collettivo. Allora cominciamo con la rassegna stampa, la sfida di Kim al mondo. Il Corriere apre su questo, apre così anche Repubblica, la bomba H di Kim. C'è questa foto di questo dittatore con la sua, con il suo scalpo, il suo taglio un po' squadrato, che indica una specie di pentola a pressione. Ma questo non è un gioco, non è uno scherzo, non è una delle parodie a cui ci ha abituato Hollywood, è veramente la bomba. E quindi improvvisamente, lo abbiamo detto nella prima parte del nostro programma, torna la paura, torna l'armamentario del terrore. Tornano le ipotesi, i piani per eliminarlo, la stampa, la bomba di Kim spaventa il mondo. Torna esattamente un'epoca che pensavamo di aver dimenticato. Allora voglio subito cominciare dal rischio, lo dico così, la disco ball e la clessidra, ma è difficile per ora pilotarle. Sul Corriere della Sera, Santevecchi ci racconta che cos'è per il momento l'arsenale della Corea. Qual è la potenzialità che ha? Il rispettato maresciallo, come tutti lo chiamano a Pyongyang, continua a dirigere e a proiettare il suo film apocalittico. L'ufficio a propaganda ha diffuso una foto di Kim Jong che ispeziona un cilindro metallico a forma di clessidra e una bomba H, un ordigno termonucleare con una potenza esplosiva aggiustabile fra decine di chilotoni e centinaia di chilotoni con grande forza distruttiva. Ora, le decine erano quelle di Hiroshima, le centinaia sono uno spettro molto molto più preoccupante e drammatico. Gli analisti a prima vista credono che la clessidra sia pronta per essere montata su un missile. E sempre la CHENA, l'agenzia internazionale, fornisce un'indicazione importante su come potrebbero usarla, facendola esplodere ad alta quota sopra un obiettivo a scopo di scatenare un'onda elettromagnetica. Ecco, questa ipotesi è indagata dalla stampa, perché poi tutti oggi danno qualcosa. Kim vuole un attacco elettromagnetico per colpire gli Stati Uniti dallo spazio. Secondo fonti militari riportate al Wall Street Journal, scrive Francesco Semprini, sta studiando l'opzione di armare un missile a lungo raggio con una bomba H per farla esplodere a quote tali da creare un blackout elettromagnetico su vasta scala, costringendo il blocco degli impianti di produzione elettrica. E poi c'è un elemento, un piccolo elemento, il trizio. La discriminante è il trizio, cioè l'elemento che permette il processo di fusione di un ordigno atomico. È ormai chiaro, diceva il professore a giugno, la Corea del Nord, il professore di cui parliamo, Oecker, è uno dei massimi esperti, la Corea del Nord è in grado di produrlo. Le intelligence di diversi paesi lo scorso anno avevano avuto indicazioni che il regime fosse a caccia di ingredienti chiave per metterlo in produzione, in particolare il litio 6, elemento su cui avrebbero messo le mani già all'inizio di quest'anno e che gli ha permesso cioè alla Corea, di ottenere nei propri laboratori il trizio che le serviva. E se produci trizio, dice Hacker, è perché vuoi bombe all'idrogeno. Allora, questa è la prospettiva, questo è il rischio. Un dittatore dispotico, autoritario, che ha costruito un regime totalmente finalizzato all'idea della guerra Questa è la potenzialità, cioè quella di un attacco elettromagnetico nucleare. Allora andiamo a cercare una lettura, un'interpretazione, perché è possibile che un dittatore da solo possa costruire nel completo dispregio della comunità internazionale una minaccia e attuarla senza che nessuno faccia niente? Ecco, questa è la prima domanda. E allora io ho trovato una spiegazione nel corsivo di Paolo Valentino, intitolato su Corriere della Sera «Il significato globale della mossa di Kim Jong», che in qualche modo dà una lettura un po' più complessa, quella di male e di bene e di semplice macchietta. Come da manuale delle provocazioni strategiche, scrive Valentino, ieri il regime nordcoreano ha letteralmente causato un terremoto nella penisola asiatica, conducendo il più potente test nucleare della sua storia. Ancora una volta Kim Jong spiazza i suoi avversari con una escalation graduale e soprattutto massimizza l'impatto politico, scegliendo per i suoi esperimenti da Dottor Stranamore un altro giorno di festa simbolico per l'America. E va bene, questo è il racconto delle cose che avete sentito forse anche nei telegiornali, nel nostro notiziario. Però il punto mi sembra questo: la ragione di questo convitato di pietra dell'intera partita, la superpotenza cinese, il motivo per cui ha sopportato i test di Kim Jong, scrive Valentino, è molto complicata. Esasperata da non meno degli americani dai fuochi d'artificio radioattivi di Kim, Pechino non vuole e non può abbandonare il suo protégé. Sapete che la Corea è un alleato tradizionale della Cina. Trattiene la rabbia per essersi vista rovinare la festa del vertice dei BRICS, ne subisce perfino le velate minacce, come ci racconta oggi il nostro Guido Santevecchi. Aderisce all'embargo sul carbone ma non taglia le forniture di petrolio come chiederebbero gli Stati Uniti. Cerca di convincere il leader coreano a negoziare ma senza crederci troppo. Soprattutto la Cina non avvalorerebbe mai un'azione militare temendo il crollo di un regime che porterebbe ai suoi confini o il caos o ancora peggio dal suo punto di vista un'eventuale riunificazione di tutta la penisola coreana sotto le insegne americane. Al fondo, e qui era un elemento di cui parlavamo anche con Francesco Merlo nella prima parte, c'è la profonda sfiducia della leadership cinese verso Trump e la potenza americana. A dispetto dell'interdipendenza delle loro economie, il leader cinese è infatti convinto che gli Stati Uniti vogliano bloccare l'ascesa mondiale del suo paese. In questo senso, la crisi nordcoreana altro non è che un derivato del conflitto fra Cina e Stati Uniti, sempre a rischio di cadere in quella che Graham Allison ha definito la trappola di Tucidide, l'inevitabile scontro al quale due potenze, una in crescita, l'altra affermata, sono condannate nella lotta per l'egemonia globale, proprio come Sparta e Atene. Ecco, mi sembra che siamo arrivati a un punto decisivo con questa analisi. Solo questo scenario, questo rapporto difficile fra Stati Uniti e Cina può spiegare come sia potuto crescere questo bubbone nel cuore dell'Asia, questa minaccia che in questo momento spaventa il mondo. Avete sentito che c'era un riferimento nel pezzo di Valentini a questo messaggio, e infatti nell'apparato della propaganda, nel racconto, nell'annunciatrice della TV di Stato che con il distintivo sul petto annuncia con molto entusiasmo il volo della bomba, c'è anche un accenno al rischio, al sorvolo della Cina, e quindi si potrebbe vedere Pechino, è un segnale in codice che tutti hanno colto. Allora, questo era ciò che vi volevo raccontare sulla Corea. Temo che ci torneremo nei prossimi giorni, è sicuramente un tema decisivo. Ma voglio andare subito al giornale per entrare nella vicenda del giorno, la vicenda degli stupratori. Espulsi ladri e clandestini, il titolo del giornale, non dovevano essere qui. Questo è il pezzo di Stefano Zurlo, il titolo del pezzo di Stefano Zurlo, che racconta tutta l'odissea di questa famiglia. Il papà dei due fratelli marocchini entra in Italia negli anni 90, si stabilisce in Veneto, il primo figlio oggi in carcere nasce a Montebelluna, l'uomo è irregolare ma una sanatoria del 95 gli offre la chance che cercava. Solo che il capofamiglia inciampa nella legge, denuncia, arresti, precedenti che saltano fuori, il permesso viene revocato, lui dovrebbe essere espulso ma gioca la carta giusta, deve accudire i bambini che intanto si moltiplicano, 2, 3, 4, di solito, spiegano la questura di Rimini, è la madre che invoca questa norma, ma questa volta è il padre a farsi avanti gettando l'ancora sul territorio italiano. Va bene, questo è il racconto. Lo abbiamo sentito nel duello fra Sallusti e Purgatori di ciò che stupisce, però c'è anche un'altra faccia e la trovo sempre sul giornale, fra l'altro per un altro pezzo del prolifico Zurlo, che racconta del fastidio e delle denunce che avevano subito da parte dei vicini. Ma questi vicini, pensate un po', erano marocchini. Andate via. Donia fa una faccia feroce. L'Italia è un paese di M, perché più processi hai e più guai combini e più ti tengono qua. Pensate che paradosso. Era la vicina marocchina che denunciava la famiglia dove sono cresciuti due ragazzi minorenni che si sono macchiati di questo incredibile stupro a Riccione, a Rimini, e praticamente lei racconta di essere stata stalkerizzata e di aver ottenuto addirittura una condanna per stalking alla madre, una condanna che però era eseguita. Piano piano, scrive Zurlo, saltano fuori le carte e documento in quella situazione grottesca. La mamma dei due e di un altro fanciullo più piccolo e di una sorellina di 4 anni è stata raggiunta da un ammonimento per stalking e nei suoi confronti ha aperto un procedimento per atti persecutori. Non può avvicinarsi a casa mia, riprende Donia, ma qui siamo tutti stretti in pochi metri. Insomma, scrive Zurlo, il provvedimento era un pezzo di carta all'italiana, valeva per quello che valeva. Io ho fatto l'errore di aiutarli all'inizio, poi loro non mi hanno più mollato, furti, botte, ingiurie, ma sono sempre qui, nessuno mi butta fuori. Nessuno li rimanda a loro in Marocco e non hanno rubato solo a me, qui tutti quanti lo sanno. Ecco, questo vi dà, secondo me, la percezione di queste due verità. Stupratori, migranti, clandestini, ma anche tormentatori e molestatori dei loro vicini stranieri, anche loro. Quindi è un dibattito che si animerà nei prossimi giorni e sicuramente è destinato a suscitare tante polemiche. Anche Libero, e qui andiamo sull'apertura di Libero, l'intervista di Pietro Senaldi, Tremonti ispirato, chi fugge dalla miseria la porta a tutti noi, e Giulio Tremonti ovviamente rilancia il suo tema, che è quello del rischio dell'invasione. Allora andiamo subito sulla scuola con la prima pagina del Sole 24 Ore. Oggi ci avviciniamo al debutto, vaccini a scuola, un debutto complicato, scrive Barbara Gobbi, a una settimana esatta dalla prova generale, cioè da lunedì prossimo. L'11 settembre, che è la prima deadline cruciale per dimostrare di essersi messi in regola per l'obbligo di vaccinazione, la parola d'ordine è distensione. Però, scrive l'editorialista del Sole 24 Ore, esistono ancora delle maglie, delle difficoltà nel sistema della certificazione, qualcosa nel congegno che dovrà essere messo a punto. Allora ci fermiamo per la pubblicità, ma colgo l'occasione di dirvi che fra poco avremo il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli e lei ci spiegherà esattamente come stanno le cose sui vaccini. E rieccoci in diretta, i vostri messaggi al 349-238-6666, tanti auguri, qualche rimpianto, ma nessun rimpianto, perché Alino Milan arriva fra poco e lo attendo con ansia anche io. Una bacchettata affettuosa da parte di Paola, la ministra Telese, da lei non me l'aspettavo, è vero, ma mi deve essere scappato il ministro, giustissimo. E visto che stavamo parlando di scuola, un pezzo importante di Angelo Panebianco che sembra fatto apposta per noi, il patto con scambio che ha rovinato la scuola, ed è il patto, secondo Panebianco, che ha rotto gli argini dell'università, ha creato l'università di massa e ha limitato il numero chiuso. Su questo probabilmente sentiremo veramente Valeria Fedeli, ma anche Feltri si occupa di questa vicenda, anche lui difende il numero chiuso e se la prende soprattutto con il TAR. Notizia vecchia fa pessimo brodo, scrive Feltri. l'Università Statale di Milano ha ricevuto il doppio di richieste di iscrizione alle discipline umanistiche, in particolare a lettere, e ha risposto imponendo il numero chiuso che, essendo impossibilitato a offrire ospitalità all'intera massa di studenti desiderosi di frequentarla. Una decisione saggia, corretta e tesa a garantire un buon livello di studi. Ma gli aspiranti letterati non hanno digerito e si sono impegnati in un ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, che gli ha dato ragione. Quindi questo è il grande dilemma: aprire o chiudere le frontiere. Sentiamo Panebianco. Uno dei problemi riguarda l'insegnamento della matematica, uno dei più grandi problemi della nostra scuola. Le carenze in questo campo sbarrano di fatto a tanti futuri studenti universitari l'ingresso nei corsi scientifici. La ragione di tanti giovani si orientano verso le facoltà umanistiche che, nonostante minori possibilità di occupazione post laurea, sono le più gettonate. Ma qualcuno forse in tutti questi anni si è mai preoccupato di questo problema? La ministra Fedeli ha ribadito anche in questa occasione, ripetendo un antico ritornello, che occorrono più laureati. Mi dispiace, ma detto così, scrive Panebianco, non è vero. Occorrono più laureati, anzi tanti di più, ma nelle materie scientifiche. Ecco, questo è il guanto di sfida, è un grande tema di discussione: la libertà delle scelte, le possibilità di formazione e soprattutto la qualità della formazione. Allora, entriamo dentro la giornata di Cernobbio. È stato, abbiamo detto, come dire, la seconda importante giornata di dibattito dopo quella che non abbiamo potuto raccontare. C'era stato il confronto fra un Gentiloni ottimista, il discorso del presidente di Confindustria che indicava una soluzione nella crisi. Partiamo prima dagli obiettivi, da dove vogliamo andare, e poi cerchiamo le risorse, invece che partire dalle risorse e poi dividerle. Allora, questo è il tema anche di oggi: crescita, nuove riforme o si arretra? Risponde idealmente a queste due questioni Padoan stamattina, il superministro dell'economia, cioè ieri, ma nei giornali di stamattina. Subito nuove riforme, scrive Paola Pica sul Corriere, o si rischia di tornare indietro. Piercarlo Padoan non vuole perdere la finestra di opportunità che si è aperta in un clima economico e politico positivo. La ripresa ha una forte componente congiunturale, ma contiene anche aspetti strutturali, dice il ministro, che vanno via via facendosi più evidenti, e lo dice al forum Ambrosetti, intercettando la domanda numero uno, che è quella sull'aumento del PIL. È vera crescita? La questione sulla quale interrogarsi, secondo Padoan, sarebbe piuttosto la presenza o meno di una visione di futuro del paese, perché, spiega il ministro, già capo economista dell'OCSE, gli elementi ciclici mostrano un aspetto negativo. Il ciclo a un certo punto finisce e a quel punto il paese non sta fermo, va indietro. Allora, è sicuramente un grande tema. E è interessante vedere come c'è un'intervista molto importante del presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, che parla del problema delle banche. I problemi delle banche, dice, non devono trasformarsi in debito pubblico, e fa degli esempi che non riguardano fra l'altro solo l'Italia. Parla del suo paese, dove il salvataggio delle banche ha quasi raddoppiato il debito pubblico. Parla dell'Irlanda, e il caso più evidente è passata da un debito bassissimo a più del 100% del PIL. Anche noi in Olanda, per la stessa ragione, siamo passati da un debito del 45 a un debito del 70. Poi aggiunge: salvare le banche costa caro. Per questo sono tanto a favore di avere un meccanismo con il bail-in che protegge i contribuenti, chiamando azionisti, obbligazionisti e potenzialmente depositanti ad assumersi buona parte delle perdite. Però, come sappiamo, questa via di uscita, che è così bella dal punto di vista strutturale, dal punto di vista dei singoli, quando tocca a qualcuno, diventa molto pericolosa. Allora, dicevamo Salvini, il giorno di Salvini e il giorno di Di Maio, le due letture di Libero, forse anche un po', come dire, impressionistiche, il voltafaccia di Di Maio che si inchina all'Europa, questo è il pezzo di Fausto Carioti, Salvini dagli imprenditori, così vi farò diventare ricchi. E perché? Perché la Lega e il suo responsabile economico, oltre che il suo leader, sono andati a Cernobbio a lanciare la proposta delle due aliquote fiscali. E ovviamente è un test importante. Sulla Stampa c'è una lettura interessante. Monti, stupito da Lega e Movimento 5 Stelle, ora si è annacquato il loro anti-europeismo. L'ex premier Di Maio vuole sembrare moderato, però detto da Monti sembra quasi un viatico positivo. È stato un bene, dice Monti, che non ci siano state elezioni anticipate. In un colloquio con Marco Zatterin, avremmo subito l'attesa del disastro elettorale che non c'è stato in Olanda e in Francia. Ancora la Stampa, Di Maio a Cernobbio in doppio petto, il mio modello, pensate, è il possibile candidato premier dei 5 Stelle, non mi chiedo se lo abbia sentito Grillo, è il governo Rajoy, quindi il governo, come sapete, di uno dei leader del Partito Popolare Europeo, il premier che governa la Spagna. Salvini parla di migranti, racconta Ilario Lombardo insieme a Francesco Spini, gli inviati a Cernobbio del quotidiano di Torino, leader a 5 Stelle di Smart Nation, imprenditori un po' freddini. Però è interessante la ricapitolazione di Jacopo Iacoboni, per chi vuole rivedere il film, 10 anni di metamorfosi dal V-Day. Così il Movimento 5 Stelle si è fatto sistema, euro, establishment, TV, soldi, tutti voltafaccia dei grillini. È un pezzo ovviamente un po' sapido, un po' cattivello, però insomma ci può stare ed è interessante per chi vuole farsi un'idea. Allora, collegato a questo tema c'è ovviamente un tema altrettanto importante, che è quello della finanziaria che incombe. E allora dal Fatto Quotidiano io vado a prendere un pezzo del vice direttore Stefano Feltri, che racconta, oltre ai piani della squadra di Gentiloni, il tema della manovra. La manovra fa Di Paolo il fantasma, un leader politico, assicura Feltri, Stefano. Però i numeri sono preoccupanti, lo segnalano tutti. Si tratta di replicare il successo del Jobs Act, un po' di incentivi alle assunzioni di giovani sotto i 32 anni, in modo da far migliorare i dati sulla disoccupazione giusto prima delle elezioni, un taglio al cuneo fiscale, c'è un po' di sarcasmo, lo cogliete, la differenza fra quanto il lavoratore costa all'azienda e quanto incassa, riducendo i contributi che nelle ipotesi prudenti dovrebbero costare fra i 900 milioni e 2 miliardi all'anno, costo limitato, beneficio limitato. E poi, questo è il punto, 1-2 miliardi come incentivo per gli investimenti alle imprese. Dove trovare questi soldi? Questa è la domanda che si pone Feltri, ma che si pongono molto. A seconda delle ipotesi, più minimaliste o più ambiziose, sommano fra i 15 e i 23 miliardi, non si sa. L'unica copertura di cui si discute è rendere obbligatorio la fatturazione elettronica fra privati. Bene, strada in diretta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... "24 Mattino". Allora, ho interrotto la lettura del pezzo e ricapitolava il fabbisogno economico, secondo Stefano Feltri, l'agenda, il premier ha meno di 70 giorni per trovare fra 15 e 23 miliardi. Ovviamente si parla di Gentiloni, e volevo chiudere solo con questa valutazione sui tempi, molto importante. Secondo i calcoli fatti dal Sole 24 Ore, ci sono solo 65-70 giorni di lavoro effettivi prima della fine di legislatura, calcolando che sia a marzo. Gentiloni li dedicherà quasi tutti alla legge di bilancio, questioni meno economiche ma più sensibili come lo ius soli verranno rimandate all'anno nuovo dopo l'approvazione dei conti. Forse Gentiloni potrà disinnescare quei problemi, ma con il bilancio invece non ha scampo e deve occuparsene. Allora, questo è il tema decisivo dei conti dello Stato, che collegati diciamo direttamente a Cernobbio, ma l'altro grande tema ovviamente è l'immigrazione, gli sbarchi, e ha parlato in una sede diciamo particolare, e anche questa è stata una scelta, il super ministro dell'interno Minniti, e lo ha fatto con rispondendo alle tante obiezioni che ha avuto in questi giorni. È il titolo di prima pagina del giornale diretto da Marco Travaglio: Minniti, ora i diritti umani. Dicevo del tono, no? Abbiamo sempre parlato di Crozza, dell'imitazione perfetta che fa, diciamo, dell'enfasi appassionata di Minniti. Chissà se, come in tanti altri casi, l'imitazione diventa un certificato di notorietà. Qui i toni sono stati veramente molto caldi. Minniti, ora i diritti umani, mi gioco la carriera sull'ONU nei campi in Libia. Beh, è una cosa molto forte. I trafficanti sono il vero nemico. Minniti prende l'impegno di voler intervenire e vigilare su quei lager che abbiamo raccontato tante volte, che sono dall'altra parte del Mediterraneo. E sentite come una contabilità, racconta Fierro nella sua cronaca di questa, Enrico Fierro nella sua cronaca di questa giornata, che non convince Furio Colombo. Non possiamo dire che abbiamo meno sbarchi e meno morti. Il problema, dice Colombo, è che gli immigrati, i profughi, sono stati fermati e sono dall'altra parte. Dove? In Libia, paese diviso per bande con un governo fragile. E a questa voce risponde Minniti dicendo a Furio, che per me è sempre stato un riferimento, chiede di essere severissimo se non mi impegnerò su quello che sto dicendo, sui diritti umani, io mi gioco tutto. Quindi il tono di Minniti ci dice molto. Allora vorrei parlare però di che cosa accade nella politica. Il Big Bang è sulla Sicilia, la Sicilia è la prova generale delle elezioni politiche, ma si stanno muovendo tante cose. Prima cosa, lo scenario di Tommaso Labate: Berlusconi convinto della vittoria in Sicilia e poi anche in Italia, e pensa come candidato premier a Tajani. L'idea? Puntare sul presidente del Parlamento europeo con Forza Italia, primo partito del centrodestra. Sì, perché c'è questa clausola: chi arriva primo fra Lega e Forza Italia sceglie il premier. E Renzi che cosa combina? Interviene, come sapete, ha ricominciato il suo viaggio alle feste dell'Unità, e per spiegare il suo dilemma è interessante sentire un giornale che è molto vicino, Il Foglio, con l'editoriale di oggi di Claudio Cerasa: perché Renzi deve spicciarsi e salvare il cavaliere da Salvini. Quindi, come vedete, una lettura molto controcorrente. Mentre rinasce il centrodestra, Il Foglio consiglia a Renzi di stringersi a Berlusconi e ritornare a quel famoso Nazareno che, come sapete, è stato definito anche inciucio. Ma invece cosa succede a sinistra e cosa succede in Sicilia? Beh, è saltato tutto, è pazzesco, è meraviglioso. Era stato varato con molte difficoltà il candidato del centrosinistra, che, come sapete, è il rettore dell'Università di Palermo, Micari, e adesso questa candidatura sembra un po' azzoppata. C'è la minaccia del governatore Crocetta di andare alle primarie o di fare una lista separata se non le ottiene, e quindi su questo si apre di nuovo il balletto. Giovanna Casadio ci informa su Repubblica dell'ultima possibilità: un nome antimafia in ticket con Micari per poter rimettere in sesto le cose e partire. Sono quello che ha sottratto la Sicilia alla destra, non posso contribuire adesso a regalargliela e non posso assistere a un omicidio politico. Questo è il grido di battaglia lanciato dall'ottimo Crocetta, e forse potrebbe ottenere questa concessione. È tornato un personaggio incredibile, con un'uscita incredibile, l'ho vista sul giornale. Vi ricordate ricordate che cosa successe per quella battuta di Corsaro sulle ciglia tremende del suo collega in Parlamento, nonché deputato del Partito Democratico Fiano? Bene, ha fatto un altro tweet, shock, ce lo dice il giornale a pagina 10, Charlie Hebdo, pensate, Corsaro, il deputato Corsaro si occupa di Charlie Hebdo, ha fatto una copertina in cui diceva Dio esiste e per fortuna ha alluvionato i nazisti del Texas, e Corsaro ha detto l'ISIS deve tornare a Parigi e deve finire il lavoro iniziato a Charlie Hebdo. Pensate, il lavoro iniziato con una strage. Io non lo so, forse lo chiameremo, perché questo Corsaro è veramente incredibile. Allora, parlavamo della nazionale. La nazionale è il simbolo d'Italia, il calcio è metafora di quello che accade nel paese, non lo so, però Mario Sconcerti, per chi interessa, fa una lunga intervista al Libero e dice che questa nazionale sui minimi storici è al tracollo perché non ha prospettiva, non ha giovani, ha soltanto un mercato in cui si sono spesi troppi soldi. Ci fermiamo qua.